Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, sì, stasera siamo in ritardissimo, la Pallavolo ha fatto un lunghissimo set, ultimo set, ma dobbiamo assolutamente accelerare. Buonasera da Maurizio Calzavare, buonasera da Rockway, buonasera di Battisto Coco, che finalmente si sentono. Da Venezia! Stavamo da prendendo il sonno. No, adesso ci sveglieremo subito, immediatamente. Ok. Buonasera ai Battisto Coco, è la prima volta in assoluto che ospitiamo questa band molto famosa dalle nostre parti e non solo dalle nostre parti. Abbiamo poco tempo però per descrivere un momento, i 25 anni di carriera, poche parole però quelle sentite. Battisto Coco nascono a Mestre da una scuola di strumenti a percussione andavamo a tutti i carnevali con tutti i percussionisti, 20 o 30 percussionisti. Poi a questi percussionisti sono stati aggiunti gli altri strumenti che adatti per suonare la musica latinoamericana, la salsa appunto, quindi i fiati, il sax, il trombone, la tromba, poi il pianoforte, e il basso e un po' di cantanti. E poi un po' alla volta ci siamo spoltiti, da 18 siamo passati all'attuale formazione che siamo circa in 12. 12 più tecnico, 12. Più esatto. Fonico, in 13. Però voi partite dal jazz e dalla musica, sì, classica. La nostra estrazione era un po' da musicisti che suonavano, che studiavano il jazz, e alcuni di noi anche la musica classica. Alcuni di noi hanno suonato in orchestra al Teatro La Fenice per diversi anni. Benissimo, ci presentiamo visto che ci siamo. Io sono Eddie, sono un percussionista, Eddie Defanti. Io sono Massimo, voce. Io sono Franco, tromba. Giorgio, sax tenore. Gianni Congas. Benissimo, questa è una piccola formazione rispetto alla grande formazione, ma una formazione che serve, assolutamente essenziale per fare questo piccolo viaggio stasera. Però faremo una prossima puntata, un'altra occasione per ampliare il viaggio. Senza pallavolo, chiaramente, per ampliare il viaggio. Avete fatto questo disco per commemorare 25 anni di carriera, un disco che è uscito da poco, c'è un inedito, chiaramente una compilation con un inedito. E l'inedito come si chiama? L'inedito si chiama Facebook. Benissimo, alla veneziana Facebook. È scritto in veneziano, ma è un brano cantato questa volta in italiano. E poi noi ne abbiamo fatto anche una versione in dialetto. Non tantissimi ne avete fatto in italiano. Assolutamente no, però la nostra particolarità è quella di cantare in dialetto veneziano, che ben si sposa con il sound spagnolo, e così siamo la salsa. E in realtà questa canzone è in italiano, è un evento piuttosto raro nella nostra discografia. Oio come va, che era un pezzo dei Santana, ma era un pezzo salsa. No. Non era di Santana, ma è stato portato al successo da Santana. Ecco, attenzione, che non facciamo molti errori. Esattamente, questa canzone. Però Santana l'ha portato al successo planetario. Certo. Quindi ha fatto bene o male far sentire a tanta gente che cos'era la salsa, tra virgolette. Sempre da virgolette. Salsa, che poi voleva dire l'unione tra vari generi, che è nata a New York, praticamente, negli primi anni 60. L'unione tra il jazz e la musica appunto cubana, latinoamericana, e tutti i vari caraibica generi, insomma, la caraibica, esattamente. Ecco, e si chiamò salsa, e da quella volta è stata adoperata come termine. Adesso sentiamo la salsa fatta chiaramente dai Battisto Coco col pezzo inedito da disco, lo sentiamo e poi cominciamo a suonare perché il tempo scorre. Ok, sentiamo questo pezzo inedito allora dall'album Facebook. C'è nessuno che non ha internet, si collega 20 ore al giorno e poi non dorme neanche per lo stress. Ma il fatto che sconvolge tutta la gente è questo mondo su Facebook, dove chiunque può sentirsi importante. Che interessante è Facebook. Facebook, Facebook, se non ti vedo vado in Facebook, Facebook, arrivo a casa e attacco Facebook, Facebook, e non mi muovo più. di Facebook, tanti amici mi fan trovare, i miei cugini, i miei vicini di casa, anche mio figlio conosciuto là. Ma dopo, quando ci si incontra per strada, non li saluto neanche più. Non vedo l'ora di correre a casa, chattar con loro su Facebook. Facebook, Facebook, se non ti vedo vado in Facebook, Facebook. Arrivo a casa, attacco Facebook, Facebook, e non mi muovo più. Ok, ringraziamo Michele Tosoni in regia e ringraziamo David Bonato che, e grazie ad Alberto Pisco, ciao, il nostro David, curatore, vi ha portato qua stasera. Ok, adesso abbiamo sentito questo singolo che è il di fuori della compilation e dobbiamo assolutamente suonare. Vai. Che cosa? Suoniamo una canzone che parla un po' della frenesia della gente, quindi questa canzone è stata composta circa 15 anni fa. Da che album era, ti ricordi? Era da Camoma, quindi il secondo, pensa. E qua c'è un discorso molto interessante: ogni album aveva dei riferimenti particolari. Aveva delle cose particolari, sì. Questo riferimento era un po', era il periodo della frenesia della gente che correva sempre per soldi, questo lavoro, velocità. E noi, anzi, io e Giorgio Bertin, appunto, che mi ha aiutato. Il poeta, la canzone, il poeta del gruppo del 70% ha scritto questo testo appunto contro questa frenesia e si chiama Cori Cori Cosa Che Ti Cori. Chiarissima, si capisce subito. Paso. mi conosco un sapapian che ti sciocca di salute. Io starie che sei ottanto qualche moma le fa tutte. Qualche moma piano, stai calmo, usa pian pesta guaivo, senza fretta, tranquillo, ogni giorno me dico, vai piano, sta più calmo, senza furia e corri poco, che ti rivarai un can, guarda qua il battisto cocco, corri, corri, ossa che ti corri, finché ti corri non ti rivarà mai, corri, corri, cosa che ti corri, finché ti corri non ti rivarà mai. Ai! Macchina e se massa, dosso il muro e se spaccecca, e gli altri vedi semo, senza far morale falsa, butta via tutte le pastiglie, e metteme vai a salsa, vai a salsa, vai a salsa, vai a salsa. Piano, stai calmo, usa pian pesta guaivo, senza fretta, tranquillo, ogni giorno me dico, vai piano, sta più calmo, senza furia e corri poco, che ti rivarai un tam. Guarda qua il battisto cocco, corri, corri, cosa che ti corri, finché ti corri non ti rivarà mai, corri, corri, cosa che ti corri, finché ti corri non ti rivarà mai. Guacamoma, guacamoma, ai ai ai ai, guacamoma, guacamoma, usa pian, festa guacamoma, usa pian, guacamoma. L'onda del rock. Suoniamo, suoniamo, dobbiamo sempre suonare, certo. dobbiamo sempre suonare. Che domande faccio? Ormai siamo caldi. Esattamente, cioè, avete fatto una dichiarazione molto interessante che è questa. Siamo più famosi di Gesù Cristo? Quella che ha detto John Lennon? No, quello John Lennon, l'ha detta John Lennon e ha avuto numerose difficoltà dopo che l'aveva detta. Dunque, sono passati 25 anni, non siamo stufi, assolutamente. Questa è una bella dichiarazione. Sì, cosa vuol dire non siamo stufi? Vuoi spiegare tu cosa vuol dire in senso figurato? Siamo pronti per i prossimi 25 anni. Perché la domanda iniziale, al microfono spento che vi ho fatto, ma come... siete riusciti a mantenervi assieme per 25 anni, musicalmente parlando? È la musica che ci fa divertire ancora, e noi riusciamo a divertirci con la musica, credo sia questo un po' il segreto. Anche tanta pazienza. Anche tanta pazienza, dice Gianni, assolutamente. Perché è difficile equilibrare certe cose, certo. Non è così. Trovare come tutti i lunghi percorsi, cioè lo stare assieme per tanto tempo un po' logora un po' chiunque, però ripeto, l'elemento che catalizza e che dà la scintilla per andare avanti è sicuramente la musica, però il segreto è quello di divertirsi, fondamentalmente è quello. E poi avete dato un'altra dichiarazione dicendo che la salsa l'avete usata a vostro piacimento per descrivere anche la laguna e quindi il territorio veneziano. Sì, non solo descrivere il paesaggio, che è una cosa che a noi no, piace, ma la gente. Ma anche i problemi, sì, che ha la città, vedi Acqua Alta, certo, abbiamo parlato di Acqua Alta, o anche i difetti e i pregi anche, certo, dei veneziani, direi, o del popolo veneto. E visto che la lingua veneziana si avvicina molto allo spagnolo. Sì, beh, la cadenza è molto, molto simile. E quindi è stato un motivo, un aggancio per ampliare un discorso che dura da 25 anni e tanti dischi sulle spalle, tanti dischi diversi, uno diverso dall'altro musicalmente parlando, con delle attinenze, non so, parlare della musica colta rivista in chiave salsa, della musica contemporanea rivista in chiave salsa, è una cosa molto interessante e anche difficile secondo me. Sì, e questa ci è stata commissionata da un nostro amico musicologo che abita in Svizzera, il quale ha conosciuto un banchiere, che anche questo banchiere si è innamorato di questo gruppo e ci ha commissionato appunto questo CD, dove ogni canzone doveva essere cantata in dialetto veneziano e che però avesse attinenza ad un motivo o a qualcosa di un compositore della musica contemporanea del Novecento. È una cosa molto molto difficile. Beh, ci siamo riusciti grazie un po' alle nostre esperienze dell'orchestra della musica classica. Sì, chiaramente le esperienze. Questa ci ha aiutato moltissimo a realizzare appunto alcuni brani. Citare Edgar Varese, citare John Cage non è mica una cosa semplice. Non è facile. È molto difficile. Beh, è stata una scommessa, insomma, e ci siamo divertiti. È stata molto dura, per dire la verità, però ci siamo divertiti moltissimo. Facciamo suonare e cantare, ok? Prossimo pezzo dal vivo? Dunque, possiamo fare questo brano che è tratto da... è una cover. È tratto da un disco che noi amiamo molto, che è il disco di Buena Vista Social Club, certo, dove c'è un brano che si chiama Il Carrettero, che parla di questo uomo sulle montagne, e per ricollegarci a quello che hai detto tu, l'abbiamo trasportato nel nostro habitat ed è diventato El Pescaor. Perfetto. Vai Gianni! È tutto dal vivo, naturalmente. Assolutamente. Casa mía, un pescado galetro pasó. En la canción de maintonía, paso camo mata yo canto. Me volví a un transportador, carica e San Piero, me voria un trasportator, carica e San Piero, per poter finire in mesa nel mio faticoso abu. E vogando passo al ponte, e vogando passo al ponte, e vogando passo al ponte, e vogando passo al ponte. Lavoro sin riposo, pian pian, para poderme sposar, pian pian, e se riuscirò ne a isar, pian pian, sarò pesca o orgoglioso. E vogando passo pal ponte, e vogando passo pal ponte, e vogando passo pal ponte, e vogando passo pal ponte. Thank you. pesca onde alguna, en barca vivo bien. Mi son pesca onde alguna, en barca vivo bien. E a barca se a me vida, e a più bella del mundo intero. E vogando passo pal ponte, e vogando passo pal ponte, e vogando passo pal ponte, e vogando passo pal ponte. Vogare laguna da arcoboi, che c'ha più il frutto del nostro amor. Vogare laguna da arcoboi, che c'ha più il frutto del nostro amor. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, la domanda era questa: l'avete mandata a Ray Kuder, il curatore di Buona Vista? Non ancora. Non ancora, però possibile. Non so come reagire. Perché no? Il dialetto veneziano. No, assolutamente. È deliziosa. E un grande Franco Busetto alla tromba. Dobbiamo dirlo. Ok, questa è l'esperienza cubana praticamente in chiave salsa. Poi abbiamo detto che c'era stata un'esperienza di musica contemporanea con Acqua Alta, mi pare il disco di musica contemporanea. Sì. Schoenberg, è difficile mettere in musica Schoenberg in salsa cubana. Schoenberg, siamo in diretta. Sì, sì, siamo in diretta. È stato molto difficile, però era un Notte trasfigurata, è un pezzo che io amo moltissimo di Schoenberg, e l'avevo in testa e quindi un po' sono riuscito un po' a elaborarlo e mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo aggiunto un quartetto d'archi che sono delle quattro ragazze che collaborano spesso dentro i nostri dischi. Le ricordate i nomi, sì, delle ragazze? Sì, come no. Luisa Bassetto, violino. Francesca Balestri, violino. Ha detto che si ricordava. Alessandra Zago, viola. E Valentina Rinaldo, violoncello. Tu non hai sentito cosa ha detto Gianni? Ha detto che si ricordava. E questo era perché se ne ricordava. Vabbè, giusto, le abbiamo citate. Praticamente siete passati a questa musica contemporanea, però un'altra cosa, siete passati anche alla musica barocca. Avete rivisto in chiave barocca la musica salsa, sempre veneziana, però in chiave barocca. Questo è un progetto dello scorso anno, 2010. Recentissimo. È recente, sì. è infatti tuttora il nostro ultimo album di inediti, e si chiama Barocco Coco. Esattamente. E noi li riprendiamo i grandi temi del barocco, da Vivaldi a Charpentier, ad esempio questa sera possiamo far ascoltare Sabo Sera, dove c'è l'inizio delle quattro stagioni. Volete che facciamo sentire subito Sabo Sera? Sì, che se traccia volete, è? La traccia era l'ultima che avevamo detto, per cui la 12, la 10. La 10, la traccia numero 10, quindi Sabato Sera in chiave barocca. Sì. È stato difficile l'approccio del barocco rispetto all'approccio della musica contemporanea, nonostante voi appartenete alla musica classica, alla musica jazz, quindi un po' più facile o no? Beh, diciamo forse che forse l'ascolto del precedente Acqua Alta è stato più per gli addetti ai lavori, anche se noi abbiamo cercato di renderlo commestibile a tutti, mentre questo è più suona un po' più divertente, diciamo così. Sentiamo allora Sabato Sera. Volentieri. Ok. Ogni sabato sera tutti quanti sa, se va in discoteca a far cucar, chissà quante donne dice che sta, se mi butto in mezzo a far baiar. Ma se tacca un mambo, copia smania che se, anche a stesso bombo, mi ride tutte brio perché. A sabato sera non se cuca se, non ti sa baiare a salsa. A sabato sera non se cuca se, non ti sa baiare mambo. capio che finché Nino GoPro va qualche baio Sud American. E baiando in coppia noi o go impara, mi ritrovo solo come un can. Ma sei tacca un ciaccia, tutte donne che se, e mi ride in faccia, noi mi caga più perché. A sabo sera non se cuca se, non ti sa baiare a salsa. Sabo sera non sei cuca se non ti sa baiare il mambo. A sabo sera non sei cuca se non ti sa baiare la salsa. A sabo sera non sei cuca se non ti sa baiare il merengue. So che ballo a salsa, mambo cha cha merengue son. Adesso che go impara a ballare a salsa, adesso che ballo a salsa, mambo cha cha merengue son. E se te par a ti che mi no sia buon, provati a dirmi come se fa. Adesso che ballo a salsa, mambo cha cha merengue son. Go impara a ballare, go impara a ballare, go impara a ballare a salsa coi Battisto. Adesso che ballo a salsa, mambo cha cha merengue son. Con tutte donne in pista, del ballo mi so un artista. A sabo sera non se cuca se, non ti sa ballare a salsa. Sera non sei cuca se non ti sa baiare il mambo. A sabo sera non sei cuca se non ti sa baiare la salsa. A sabo sera non sei cuca se non ti sa baiare il merengue. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Stiamo musicalmente piacevolmente conversando con Battisto Cocco. È passato un pezzo adesso da disco, sabato sera, e una frase del nostro cantante, un pezzo è, diventa il Satisfaction vostro, qual è? Tatiana, il Satisfaction sì, vostro. Perché assolutamente va fatta durante i concerti ed è richiesto a gran voce. Fammi Tatiana! Quanto, esatto, è il tipico intercalare. Perché è il pezzo più famoso, più amato, possiamo dire. Beh, sì, intanto a noi piace molto, ci divertiamo a suonarlo. E è molto veneziano. È molto veneziano, e ritrae un certo tipo di personaggio, insomma. E ricordiamo una cosa che vi stanno vedendo anche con le webcam. Quindi... Ah, beh, bello spettacolo. Perché no? È un ottimo spettacolo. Il concerto, citiamo, se vi ricordate, gli altri sei che non sono venuti stasera. Dunque, possiamo dire Cesare Pasqualetto alle tastiere, Marco Musoni al basso, Icio Maurizio Pegoraro ai bongo, bene, che è un altro percussionista, Maurizio Scomparini alla tromba, Padovano, e poi abbiamo un altro cantante, il mio socio Patrizio Idrovo. Due cantanti, allora. Sudamericano, sì. Ah, due cantanti, molto interessante. E sto dimenticando qualcuno. Renzo De Rossi al sax baritono e Davide Ghidoni. Esatto, diciamo che ci siamo. Benissimo, quindi ci sono due cantanti, sì, due sax. Quante trombe? Una sola? Tre trombe? Sì. Due o tre? E beh, Tre percussionisti, 1, 2, 3. Un'orchestra vera e propria, è quello. Un'orchestra di salsa veneziana. È bella, un'orchestra di salsa veneziana. Uno spettacolo live, come si imposta con 11 elementi sul palco? Lascio la parola al direttore. Il direttore dell'orchestra. Abbiamo un direttore. Bene, bene. Nel corso degli anni abbiamo affinato, diciamo, un po' i trucchi del mestiere. E sappiamo quali canzoni farle, in che punto del concerto, come e quando, e poi molto importante è anche la spettacolarità, anche il modo di vestirci, questo è fondamentale, il vestito, quello che molti gruppi tralasciano, tra l'altro. Ma noi ci vestiamo molto colorati in alcuni periodi dell'anno. Ultimamente invece siamo vestiti in nero con camicia e cravatta, proprio da barocco, un po' da musica classica, diciamo, un po' così. Per ricordare l'ultimo disco, un po', esatto, e anche in bianco a volte, solo tutto in bianco. Questo è una qualcosa che è un collegamento con gli anni 60, di vestirsi in nero, certo. Quindi i Beatles, i Rolling Stones. Ma anche un po' perché per noi il palco è magia, quindi non dobbiamo essere delle persone comuni, senza niente togliere a nessuno, ma è un po' come un padre che fa che dice la messa. La vestizione è la cosa fondamentale, noi vendiamo musica e dobbiamo vederla in una certa maniera. Certo, ricordo ricordo i Corvi, non so, vi ricordate i Corvi? Come? Ragazzo di strada. Anche una festa. Abbiamo suonato insieme. Ragazzo di strada. Io ricordo sempre che il leader aveva il corvo sulla spalla. E dopo purtroppo ha fatto una brutta fine perché lo sono dimenticato nel camper, praticamente. E aveva, non so se lo sapete, era stato ammaestrato a bere il gin sui bicchieri della band. Questo era il corvo dei ragazzi. Era un gruppo straordinario. I Corvi, negli anni 60, avevano... Erano molto molto avanti su certi temi. Era un corvo di strada. Era un corvo di strada, esatto. Beveva gin. Adesso era in linea con gli altri componenti. Sì, molto, molto in linea. Suoniamo cosa adesso? Adesso vi facciamo ascoltare in versione acustica Tatiana. Ah, il lead singer. Lead singer, ok. 1, 2, 3, 4. Fora de Gaera, so sta dentro 3 mesi, stai sta 3 mesi. Che coro tua musana, quel porco che t'ha importuna, porco. Ma questo tatuaggio in quel posto che nome sta ben. Se in te manca de rispetto, me sento montare il ben. Che goda sta musonna, quel brutto coion. A quel cao che ti manca di rispetto, che s'aveva permesso usarsi con l'occhio sul petto. Tita morti, una tita tita tatua, Tatiana. Tita morti, una tita tita tatua, Tatiana. Ora i mosconi, ise tutti chi spetta per fusarsi con l'occio e coi man sul tattoo de a tutt'età. Ai tuoi primi tatuaggi te portavo al sol dei murassi. Mia maraia curiosa te mandava i disegni sui brassi. Adesso che sei chi che approfitta, perché il te oggia e te marca più stretta, e lo fa far potersi gustare il tatu de a tutt'età. Tita morti, una tita tita tatua, Tatiana, tita. morti, dita morti, dita morti, dita morti, dita morti, dita da tua, na dita, dita morti, dita da tua, Tatiana, dita morti, dita da tua, na dita, dita morti, dita da tua, Tatiana, dita morti, dita da tua, na dita, dita morti, dita da tua, Tatiana, dita morti, dita da tua, na dita, dita morti, dita da tua. Y ti sano digo niente, no parlo e neanche me año. Con ti gata tua, el mio nome sue gambe da trio. Y no godito niente, me sentivo perfino orgoglio. E adesso che sei chi che approfitta, perché el te oggia e te manca di stretta. E lo fa per potersi gustare tattute a tutti da Tita morti, la tita tita tatua Tatiana. Tita morti, la tita tita tatua Tatiana. Tita morti, la tita tita tatua Tatiana. Tita morti, tita tita tatua Tatiana. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ladies and gentlemen, Battisto Cocco. Bene, è proprio un hit single, proprio trascinante. Questo è proprio divertente. Quanto ve lo richiedono questo pezzo nei concerti? Sempre. Sempre, perché è conosciuto, insomma. È a voce alta. È a voce, a gran voce. Lo invocano. Come si apre i concerti? Con questo pezzo o si chiude con questo pezzo? Questo pezzo è mediamente a metà o verso tra la metà e la fine, diciamo, ecco. Quando lo spettacolo inizia a scaldarsi, a scaldarsi, a salire. Bello, bello, uno spettacolo dei Battisto Cocco, come costruito praticamente, un inizio di un certo rilievo, poi si alza la tensione, poi si alza sempre di più fino a fare una jam session finale, così. È proprio così, e spesso facciamo anche delle cover. Quali cover? Possiamo citare Cuba, un brano che facciamo recentemente, poi facciamo sempre cose da Buena Vista Social Club, tipo Candela, il quarto di Tula. Ah, ok. Non vale la pena, giusto Eddie? Ma una delle più belle... quando abbiamo inciso questo album degli anni 60, quindi facciamo Una ragazza in due dei Giganti. In versione salsa. Bella, bellissima. Facciamo Il mondo di Jimmy Fontana. Quello è un pezzo difficile da fare in versione salsa. No, è semplice. Vai. No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. Con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, così via, e così via. Bella, bellissimo. Siamo i grandi confidenziali del passato, cosa nella quale noi siamo specialisti. Ma un grande confidenziale con molta ironia, però, nel certo, vostro paese. Molta ironia, ma ironia che graffia, va dentro. Bravo, vero, sì. Non è così. È il nostro un po'. Il vostro punto di vista. È un nostro leitmotiv, quello dell'ironia. Ci prendiamo in giro anche da spesso. Da soli, così veramente. Siamo ancora uniti dopo 25 anni. Per quello allora, perché vi prendete in giro? Prendiamo in giro. Sempre, senza deciso. Andare oltre, però no, per certo. quello siete uniti. Il motivo è questo. Certamente. Esattamente, è una cosa molto interessante. Quindi 25 anni di carriera, tante cose, tanti dischi, tanti concerti. Madonna. Tantissimi dappertutto. Concerti, un po' dappertutto, sì, un po' in Italia, all'estero. Ah, e l'estero dove? Siamo stati a Ginevra, abbiamo fatto un bellissimo concerto, a Basilea. Mm. Poi abbiamo suonato vicino a Vienna e anche in Slovenia. E la risposta del pubblico di quei posti? Ma all'inizio rimangono un po' così e credono che noi proveniamo dai Cuba. Caraibi. Da dai Cuba. Caraibi. Poi un po' parlando e spiegando, insomma, capiscono che... non capiscono, ma accettano che siamo veneziani. Veneziano è una lingua universale, allora. Beh, abbiamo cantato Tatiana a Ginevra, c'era tutta la gente che batteva le mani in piedi che cantava con noi Tatiana. Abbiamo fatto parlare dicendo la parola Tatiana, siamo riusciti. Perché c'è il pato, c'è la voglia, c'è il feeling, quello. Sì, ma soprattutto, ripeto, c'è il divertimento. C'è il divertimento, un divertimento che fa sano, piacere. È un divertimento sano. Ecco. Esattamente, un divertimento sano, è una cosa giustissima. Continuiamo il nostro divertimento sano, cosa sentiamo adesso? Beh, vorremmo cantare una canzone che per noi è abbastanza inedita, inusuale. Sì, una new entry per la nostra trasmissione, perché o quasi. Così affrontiamo un tema serio, quello dell'immigrazione. Ok. Il testo non è faceto una volta tanto e si chiama Clandestine. Ok. Messo in barca, na notte le tempeste, in riva al mare so scampar, da sta miseria che me fa morire, non ho niente, soltanto è la speranza di trovare un fia di dignità. Tra oggi tristi, paura di negarsi, aspettando che la nave venga a salvarne, e passa i giorni a voglia di resistere, e quando sembra tardi l'incubo finisce. Mi sono clandestino, assieme trovare il mio destino. Mi sono clandestino, assieme trovare il mio destino. Che scana lacrima per quello che go assa, anche se ho promesso che un giorno tornerò. E so contento perché mi vado avanti, e certamente qualche duno mi aiuterà. Una nuova vita sicuro me farò, e una famiglia coi fiori perché no. E se per caso me avanza qualche scheo, a chi se resta a casa che o manderò. Mi sono clandestino, assieme trovare il mio destino. Mi sono clandestino, assieme trovare il mio destino. È già passato anni o forse più, e il sogno che avevo e ho gote smentega. Non go famiglia e non go skei, se neanche un posto di lavoro go trovar. Sempre più grande se ha voglia di tornar, dove sono nato, dove trovo caor. E non se facile far parte di una terra, se se sta terra che a fine non ha devor. Mi sono clandestino, assieme trovare il mio destino. Mi clandestin, mi sol clandestin, así me trovare el mio destin, mi sol clandestin, así me trovare el mio destin. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, sì, questa è una chiave assolutamente diversa, è giusto che sia così. Beh, certo, cioè, cioè, qualche volta ci vuole anche un qualche po', momento, no? La risata, qualche volta si deve, attenzione, si deve un po' pensare. Ci sono dei temi, no? Importanti. Dei temi importanti. Musicalmente come l'avete pensata? Sì, questa fa parte del barocco, se mi pare. Sì, sì, esatto. Sì, proviene da un tema di un compositore Buranello, Baldassare Galuppi. Come si pronuncia Galuppi? Galuppi. Quindi un musicista classico, chiaramente. Decisamente del Settecento. Del Settecento, che poi avete rielaborato, sì, questo concerto per mandolino e orchestra. Mm. Il tema iniziale, quello che facevano i fiati adesso, venivano ripresi. Sax tenore e la tromba di Giorgio Schiavone e Franco Busetto. Poi ci sono i congas di Gianni Scanu. La chitarra e i timbali di Eddie De Fanti e la voce e ballo e ballo, ballo di Massimo. Beh, io ho detto il frass, no, no. Loro è tutta invidia, è tutta invidia. Eravamo già messi d'accordo, il ballo però c'era. Siamo preparati da casa. Esattamente. Sentiamo un pezzo da disco, quale? Adesso il pezzo, diciamo, più conosciuto, credo, dei Battisto Coco. Io ero un loro fan quando passava in radio ogni giorno a Radio Venezia. Bene. Nel 93. Parliamo del 93, è uscito anche in vinile, vero? Tanto bello, bello. Ce l'avete ancora? Sì, sì, sì. Sì, sì. Benissimo. Il brano si chiama Bombe e questo è un brano tratto da un concerto dal vivo al Palafenice. Numero 3. Un live praticamente. Live, okay. Felice di Venezia. Bene. Bombe. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo, decisamente molto interessante, come tutti i pezzi di Battisto Cocco, è molto ballabile. Questa è la, bisogna ballarlo, bisogna muoversi, non stare fermi. Giusto. E questa è la lì praticamente il punto focale di tutta la musica vostra, il ballare, il muoversi più che il ballare. Beh, con, certo. Con dei testi chiaramente che sono ironici e una certa, danno una certa quadratura del cerchio su certe cose, cosa dite? Decisamente. Beh, il ballo sicuramente è una componente fondamentale affinché noi possiamo suonare con una certa carica. Quando vediamo la gente che comincia a muoversi e ballare, anche noi suoniamo in un altro modo. Esattamente. Infatti posso dire anche che le prime volte quando noi andavamo a suonare nelle sale da ballo, nelle discoteche, stiamo parlando del 1987-86, quindi un po' di anni fa, era difficile per noi suonare perché la salsa ancora non aveva preso ancora qui, ho capito. Veneto, assolutamente, sì, funzionava a Milano, a Roma, a Bologna, ma qui nel Veneto ancora no. Quindi e poi è cominciato nel 93-95-96, ecco, questi sono stati gli anni. E una cosa volevo chiedervi velocissimamente: come si costruisce un pezzo dei Battisto Cocco? Ma come tutte le altre canzoni, e se tu chiedi ai grandi compositori della musica italiana o anche straniera, viene da una semplicissima idea, da un motivo che hai in testa o anche una frase che ti viene in mente magari sognando o anche lavorando o facendo qualsiasi cosa. È una scintilla che nasce, è un'alchimia magica che poi se la cerchi non la trovi, ma deve venire, aspettare e avere pazienza. Ma non vi riunite mica tutti 11 dopo, vero? No, ognuno scrive per conto proprio, poi ci confrontiamo naturalmente. Ma fate come Bono degli U2 che scriveva e dopo mandava il pezzo via telefono, via quelle cose tecniche al suo amico Ige dall'altra parte dell'oceano. Certo, no. Non è, ci troviamo ancora, la suoniamo insieme, però l'input parte da questo ognuno momento. Metto del proprio, sì, sì, esattamente proprio. Adesso cosa abbiamo deciso di fare? Sentire un pezzo da disco, mi pare, o dal vivo? Adesso possiamo dire le nostre date future, esatto, facciamo un momento bene. Solo il sito vostro, chiaramente, che è www.battistococo.it, più lentamente www.battistococo.it. L'etichetta Azzurra Music. Il disco è uscito da poco tempo. Adesso è una compilation. Si chiama Ciapai coe bombe. Perfetto. È una compilation con un inedito dal titolo che, Facebook. Che abbiamo sentito prima all'inizio di trasmissione. Sì. Le date, se ti ricordi, che avete? Me le ricordo perché me le sono scritte. Molto bene. il 7 maggio a Schio. L'8 giugno apriamo il Festival Village, che dura 3 mesi, al Parco Panorama a Marghera. A Marghera, esatto, sì. E il 15 luglio siamo nuovamente a Schio, però bisogna leggere nel nostro sito i riferimenti esatti. Il 22 luglio a Belvedere di Tezze. Benissimo. Poi abbiamo altre date in settembre-ottobre, però insomma poi le divulgheremo. Abbiamo dimenticato il produttore del disco. produttore del disco è Marco Rossi. Perfetto. Che salutiamo. Che ciao Marco. Lui si sveglia, ciao Marco. Si sveglia a quest'ora normalmente. Comincia a quest'ora qui. Allora, adesso cosa abbiamo in scaletta? Abbiamo un brano dal nostro disco del 2007 che aveva i riferimenti alla musica contemporanea. Il disco si chiama Acqua Alta. Il brano è Viagra della Primavera, ispirato alla Sagra della Primavera, il brano numero 12. Perfetto, adesso lo sentiamo. E l'Acqua Alta era un disco molto interessante, ripetiamo, molto importante, sì, difficile, ma significativo. Si può ancora comprare, addirittura. Prova, sì, sì. Primavera, chi fa l'amor e chi se dispera, e tiende paura, perea su prestación e quanto il cattura. Colpa del suo destino, se ha qualche amante che vuole l'aiutin. Al dottor do pastigliette e te fa far l'amor. Viagra te a primavera, mesa pastiglia e ti se spasema. Viagra te a primavera, tole a pastiglia e ti se soddisfa. Primavera, manca l'amor, speremo nell'istà. Qua che vuole un break, dice a donna che te gascredita. Colpa fu dello stress, se a farci le case un uomo intossica. Al dottor do pastigliette e te fa far l'amor. Viagra te a primavera, mesa pastiglia e ti se spasema. Viagra te a primavera, tole a pastiglia e ti se soddisfa. Quando arriva sto dottor, primavera viene per far l'amor, perché in Battista primavera gli si dismessia dal letargo, mano e con le pastigliette. Primavera viene per far l'amor, vieni a primavera, vieni a primavera, vieni a primavera per Battista che non no, si dispera. Primavera viene per far l'amor, a saper che il mondo dica, ma per Battista è meglio roba, sei sempre, sempre. Viagra, te a primavera, pensa pastiglia e ti se spasema. Viagra, te a primavera, tolle a pastiglia e ti se soddisfa. We'll be right back. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo e adesso abbiamo deciso, mentre il pezzo andava, di far sentire qualcosa di particolare, che è una storia un po' antica, con un testo antico. Dimmi. Sì, è un pezzo che a noi piace molto, molto intimo in un certo senso. Nella sua origine si chiama Peregrinazione Lagunare, è un testo, mi sembra, Eddie, del 500, 1500, e quindi parla anche un veneziano desueto che non, sì, che non si usa più. Modo di parlare un po' diverso, e parla, ed è un percorso che fa come una persona con la barca, con un sandalo probabilmente, che è una tipica barca veneziana, e gira tutta la laguna, e il testo parla di questa cosa qua. Benissimo. Noi l'abbiamo fatta a modo nostro. Avete rivisitata a modo certo, nostro. Certo. Ok. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, è molto bello così in acustico. Alle concas c'era Gianni Scanu, bravissimo. Poi cosa usavi te come strumento? Queste si chiamano claves. È la claves, tipico cubano. Giorgio Schiavone, le claves. Sì. Poi c'erano gli ovetti da parte di Massimo Bellio e Frassino. Detto il Frassino. E poi la nostra tromba Franco Busetto. E mentre te, Eddie, suonavi, facevi percussione con la chitarra praticamente. Sì, con la cassa della chitarra. Bello, bello, molto bello. Si può fare musica anche così. Certo. È una musica quasi, quasi africana alla fine, una jam session quasi africana. Esattamente. In mente questo. Bene, abbiamo quasi finito. 18 e 41, mezzanotte 18 e 41. Giustamente abbiamo oltrepassato la mezzanotte per cercare di recuperare il tempo perso con la pallavolo. Adesso abbiamo deciso di fare un finale particolare con una specie di coda strumentale poi alla fine, come avevate deciso forse di fare prima. Mentre l'idea era quella, un pezzo per finire in una certa maniera. Beh, prima ci salutiamo, vi ringrazio di aver partecipato a questa prima puntata. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Blu Veneto, veramente grazie per aver avuto la pazienza di aspettare la partita di pallavolo e di averci ascoltato. Purtroppo ha perso il Padova, sì. Io vi do appuntamento prima dell'inizio dell'estate, a giugno chiaramente, così facciamo un ampliamento della formazione, facciamo un proseguo di questo concerto di stasera. Va bene. Grazie a Michele Tosoni in regia. Con cosa finiamo stasera? Adesso in questo momento facciamo un bis delle canzoni che abbiamo fatto prima, come nei nostri concerti. Come nei nostri concerti. Two, three, ok. Era so sta dentro 3 mesi, stai sta 3 mesi sono sta dentro. Che goro tua musana, che il porco che t'ha importuna. Porco! Ma con sto tatuaggio in quel posto che non mi sta bene. Dove sto posto? Se te manca del rispetto mi sento montare il vento. Ego da stramusonna che il brutto coglion, a quel cao che ti manca di rispetto, che si aveva permesso usarsi con l'occhio sul petto. Titta morti, na titta titta da tua, na chiara. Titta morti, na titta titta da tua. Adesso cusso fora i mosconi, se tutti chi aspetta per pusarsi con l'occio e coi man sul tatu de a tottetta. Ai tuoi primi tatuaggi te portavo al sol dei murassi, e amaraia curiosa te guardava i disegni sui brassi. E adesso che sei chi che approfitta, perché e te oggia e te marca più stretta, e lo fa far potersi gustare dal tuo reato teta. Titta morti, na titta titta da tua, Patriana. Titta morti, na titta titta da tua, Patriana. Titta morti, na titta. ta ti ta ta tua. Tatiana ti ta morti, na ti ta ti ta ta tua. Tita morti, morti. Che entusiasmo. Tita morti. Adesso deve dire il nome del pubblico. Tita morti, tita tatua, na tita. Tita morti, tita tatua, Tatiana. Tita morti, tita tatua, na tita. Il pubblico, tita morti, tita tatua, più forte. Tatiana. Tita morti, tita tatua, na tita. Più forte la regia, tatua. Tatiana. Tita morti, tita tatua, na tita. Solo voi, solo voi. Tatiana. Gatta tua è il mio nome, sue gambe da trio. Mi non ho godito niente, me sentivo perfino orgoglio. Con ti gatta tua un bel disegno, so spasso il peccagno. Chissà non dico niente, non parlo e neanche a me agno. E adesso che sei chi che approfitta, perché e te occia e te marca più stretta, e lo fa par potersi gustare da tu le a tonteta. Tita morti, la tita tita tatua. Tita morti, la tita tita tatua. Tatiana, tita morti, la tita tita tatua. Baila! Tita morti,